everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di solo vinili libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. A 12 minuti primi, torniamo in voce qui su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. E questo è l'appuntamento del giovedì sera dalle ore 21 alle ore 22, Do It Yourself Invasion. Ricordiamo i contatti della radio partendo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale potete ascoltare la radio in diretta streaming andando a cliccare su ascolta. Radio Onda Rossa, nata nel 1977, senza padroni, senza padrini. Progetto autogestito e totalmente autofinanziato. E che quindi ha bisogno del sostegno di tutte e tutti per continuare a trasmettere libera. Quindi potete farlo, oltre che partecipando alle iniziative. Potete farlo attraverso il sito andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati ad una pagina di PayPal. Nonché potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via De Vol 56 00 185 Roma San Lorenzo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. E quindi per proporci le vostre iniziative, le vostre autoproduzioni. Quindi mentre sotto va l'ultimo dei Flick Dance La Tête, lavoro uscito nel 2015, hardcore classico di scuola torinese. E da pochissime ore è uscito il lavoro dei Repressione, che abbiamo sentito la scorsa puntata in collegamento telefonico. E quindi dell'ultimo lavoro, Fuoco. Ci ascoltiamo la terza traccia, Ferocemente. Ultimo lavoro di Repressione che trovate scaricabile dalla loro pagina di Bandcamp. Vi ricordiamo poi che dal sito di Radio Onda Rossa, andando su Palinsesto poi il giorno giovedì e quindi cercando la trasmissione Do It Yourself Invasion, trovate poi tutte le coordinate di quello che diciamo qui in diretta. Quindi troverete sicuramente il link per scaricare l'ultimo lavoro di Repressione. Allora, weekend qui a Roma ricco di iniziative. Sarà difficile andarle a vedere tutte. questo sabato 12 marzo in quella del CSOA Spartaco ci sarà un'edizione del famigerato GoFest che in questa edizione vedrà sul palco una proposta più hardcore, nel senso più classico. Ma non solo, perché ci sono anche gli Onryo con il loro grind ipertecnico, i Nervous Academy da Valmontone, Short Fuse, Social Trauma, e da Civita Castellana anche i Malore. Qui ce li ascoltiamo dal mitico vinile che è uscito qualche tempo fa, costruito nella Tuscia. Questi sono i Malore e con la loro La Vostra Libertà. Sembrassi immobili all'arrido quotidiano, aspettano ogni attimo con corpi vuoti. È venuta male, eh? Ma aspetti qualcuno che riscatti il tuo dolore, che roda nell'animo. Malore, da capo. Sembrassi immobili all'arido quotidiano, aspettano ogni attimo con corpi vuoti. Continuano a cimarsi di te. Ma aspetti qualcuno che riscatti il tuo dolore, che roda nell'animo la tua di rabbia. Fa che esca, fa che esca. Guardi attraverso vetrine buie, è ora di romperle tutte. La vostra libertà è appesa a stessa in giù, guardatela gli occhi che fuori d'oppressione. Calpestate, è ora che esplodono, ora che lottano. Mire se volte da troppo calpestate, è ora che esplodono, è ora che lottano. Sempre il GoFest da Verona, i Reset Clan, qui del loro lavoro del 2014, Rifletti, confuso come tanti, deluso come altri. Dobbiamo capire, dobbiamo cambiare. mentre domani venerdì 11 dalle ore 22:30 al CSOA Forte Prenestino ci sarà il release party di due album, uno dei Whiskey and Funeral che ascoltiamo in sottofondo e l'altro dei Blood Legion. Quindi l'iniziativa sarà a sottoscrizione libera. Ed oltre i Whiskey and Funeral e i Blood Legion, sul palco ci saranno i Dr. Gore e gli Hostiliter. Quindi ripetiamo, ingresso a sottoscrizione libera. E questo è un pezzo dal prossimo lavoro dei Whiskey and Funeral, dal titolo Whiskey Crucis Funeral Butcher, da capo. We'll be right back. Sul palco del Forte Prenestino ci saranno anche gli Hostiliter. Qui ce li ascoltiamo da una registrazione dal vivo dello scorso 19 febbraio in occasione dell'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa al CSOA IPO di Marino, e loro sono gli Hostiliter dal vivo. Yeah. Insomma, questa sera passiamo un po' di estratti registrati rigorosamente dal vivo con microfoni ambientali. Poi sul sito di Radio Onda Rossa andremo a postare i concerti in versione integrale. E quindi passiamo al prossimo estratto, sempre quella sera a Marino, tra Malclango, gli scimmioni Malclango e Lud Rising. Oltre agli Ossiliter c'erano anche gli irriverenti Scheletro. Vabbè, tra mille fischi come piace a noi. Altre cose interessanti questo sabato, quindi il 12 marzo, sabato 12 marzo, un bel concertino in presentazione dell'ultimo 7 pollici degli Anti-You in quella del Fanfulla. Insieme agli Wounds di Milano, con membri della Crisi e tanti altri, accompagnati anche dagli Human Race. Ci ascoltiamo un pezzo di qualche anno fa degli Anti-You, dal disco Two Beat Schemes and Cold War Dreams, e questa è No One Like Me. Sempre questo sabato, pieno di roba questo weekend, in quel del Del Verme, Si non sedes is Iloia da Firenze, che abbiamo ascoltato qualche puntata fa, sempre con degli estratti live dal concerto dell'XM24. E poi, già che vanno in sottofondo, gli 8 e merda, sempre da Firenze. Usciti da poco con l'ultimo lavoro, La capitale del male. E ce l'ascoltiamo con La capitale del dio male. 8 e merda. 22:08 minuti primi in questo istante. Andiamo a chiudere così questa puntata di Do It Yourself Invasion. Quindi grazie a tutte e a tutti dell'ascolto. Un saluto, ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 21. Il nostro saluto più grande va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Rimanete all'ascolto perché tra pochissimo inizia Apostasia. C'è mica Apostasia. A giovedì prossimo vi lasciamo con i Flick Dance La Terza.